Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Torniamo questa sera sul tema della convivenza condominiale, la famosa riunione condominiale che diventa un momento drammatico della giornata. Ieri abbiamo parlato di un software che può quantomeno smussare le difficoltà e oggi invece parliamo di un'iniziativa che è nata spontaneamente, è nata a Bologna da una cultura della cooperazione. E c'è qui con me per parlarne Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Buonasera, ciao a tutti. Al telefono con noi invece c'è Gabriele Grandi, che è il protagonista di oggi perché si è inventato niente meno che... un inventore proprio, la TV condominiale. Buonasera Grandi. Buonasera a voi. Teletorre 19, Grandi, come l'è nata questa idea geniale? Beh, l'idea è talmente semplice, cioè di fatto noi abbiamo nel condominio un'unica centralina di antenna televisiva che serve tutti i 72 alloggi, le 72 famiglie che abitano qua dentro. Ho pensato che se riuscivo a connettere in qualche modo a quella centralina d'antenna l'uscita di un segnale video, che poteva essere un registratore o una telecamera o qualcosa del genere, era già fatta la TV di condominio. Ecco, la parte iniziale, insomma, diciamo, da un di tutto punto questo. Di vista tecnico, lei dice fare una TV di condominio è tutto sommato piuttosto facile. Ecco, ma questa cosa, tanto per capirsi, per esempio, se uno vuole mandare un film, è legale? Dunque, ovviamente prima di imbarcarci in un'avventura del genere ci siamo informati presso la SIAE quali erano le possibilità e i limiti. Quando dopo varie insistenze hanno capito che era un giochino che rimaneva chiuso fisicamente all'interno del palazzo, perché non usiamo onde radio per trasmettere, ma semplicemente il tracciato via cavo dell'antenna condominiale. Quando hanno saputo che non avevamo nessuna forma di introito né di pubblicità né di abbonamento, hanno detto, allora in questo caso si configura come una visione domestica. Ecco, tutto questo nasce nel 2000, giusto? Con una spesa aggiuntiva di quello che è l'impianto di 100.000 lire, questo io lo specificherei. Siete partiti con la proiezione appunto di questi film, tuttora proiettate 4 film a settimana, come se fosse al cinema, ma comodamente nella poltrona di casa propria, e in più avete, come dire, una redazione che fa invece un programma settimanale su quella che è la vita del condominio. Ecco, diciamo quindi, intanto, questa è già una notizia, si può fare una televisione condominiale, si può fare con pochi soldi, e in più ci si trova in mano un'infrastruttura che, oltre a trasmettere dei film, può trasmettere ben altro, il vostro notiziario Grandi. Ecco, voi fate una specie di telegiornale condominiale. No? Di che cosa parlate? Per esempio questa settimana di cosa vi occupate? Ma questa settimana abbiamo il punto conclusivo di un lungo lavoro che è stato fatto nel condominio per l'asportazione di parti di amianto che c'erano nei soffitti delle sale comuni e quindi sostituzione di questi soffitti con altri soffitti di altri materiali, e quindi c'è stata proprio una rivoluzione completa fatta in parte, diciamo nella parte tecnica specifica, da un'impresa dedicata a queste cose, ma poi tutto il lavoro di contorno, di preparazione delle sale e di rimessa in ordine di queste sale ce la stiamo facendo noi. E insomma, voi parlate poi degli ascensori che funzionano, non funzionano, per esempio di come è necessario comportarsi in caso di emergenza, usi corretti e scorretti delle varie attrezzature comuni disponibili in condominio, insomma un sacco di aspetti pratici ma importanti. Ecco, io a questo punto le voglio proprio chiedere una cosa un po' più generale, perché qui ci si domanda naturalmente se è nato prima l'uovo o la gallina, cioè è possibile ripetere un'esperienza di questo genere in qualunque condominio, o c'è bisogno che, come dire, scoppi l'amore fra 170 condomini, cosa che forse può succedere in 3 condomini in tutta Italia? Ecco. Ci sono due condizioni preliminari indispensabili. La prima è che il condominio non sia un piccolo condominio, che ci sia un numero di famiglie di diverse decine, come nel nostro caso, che sono 72 famiglie. La seconda è che ci sia già precedentemente una buona dose di armonia condominiale, perché questa cosa qui certamente contribuisce ad aumentare la socializzazione all'interno del condominio, ma se non ce n'è una dose iniziale, certamente non se ne fa nulla. Io ricordo ancora quando, in occasione dell'assemblea condominiale, in cui si decise di rifare tutto l'impianto dell'antenna condominiale, e io dissi, potremmo anche fare la TV di condominio, e la cosa non fu considerata come una pazzia, ma è stata detta, si potrebbe fare, sì, allora come si fa, eccetera, e alla fine la proposta è stata accettata. Aggiungiamo una cosa, per esempio voi avete anche messo in piedi una palestra condominiale, sono veramente tante le cose che si possono fare se si riescono all'interno di un grande condominio a mettere insieme le forze. Tra l'altro noi ci occupiamo di Smart City, pensiamo ai riflessi sulla mobilità di condomini che contengono al loro interno tutta una serie di servizi. Di tutte queste cose abbiamo una biblioteca, abbiamo una palestra, abbiamo una sala biliardo, abbiamo delle salette dove ci si può trovare per giocare a carte o per fare quattro chiacchiere, quindi corriamo il rischio addirittura di esagerare nell'autosufficienza culturale e ricreativa, al limite da chiuderci in casa e non uscire più. Senta, una domanda, ma mi deve rispondere in 4 secondi, c'è qualcuno che sta provando a copiarvi? Non ho mai trovato qualcuno che mi abbia detto, abbiamo cominciato a farlo anche noi. Allora, se volete copiare l'iniziativa della Torre 19 del Rione Pilastro, potete prendere tutte le informazioni al seguente indirizzo internet www.teletorre19.com. Gabriele Grandi, noi la ringraziamo moltissimo. Grazie e bravissimi. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.